Riprendiamoci lo sport. La riscoperta dello sport popolare in Italia. Continua il nostro viaggio nello sport popolare, un fenomeno che riprende piede in Italia. Dopo aver sentito la storia, i valori alla base e aver raccontato le realtà delle palestre popolari, occupiamoci ora del calcio. Il calcio è indubbiamente lo sport protagonista dei mondiali antirazzisti di cui abbiamo già parlato, che presentano però anche molte altre discipline sportive. Se questa disciplina è la più seguita in Italia nel settore mainstream, uno spazio importante ricopre anche nello sport popolare. In particolare, negli ultimi anni si sono moltiplicate le squadre che hanno utilizzato il calcio come strumento di aggregazione, integrazione, lotta al razzismo e al sessismo. Lo scorso gennaio a Roma si è tenuta la prima assemblea nazionale del calcio popolare. Si è trattato di un tentativo per mettere in rete le tante realtà che stanno nascendo e che, almeno al momento, è difficile censire. A parlarci dell'assemblea è Andrea, giocatore della squadra romana Spartak Lidense. Fondamentalmente venivamo da una serie di assemblee che si erano già fatte sul piano nazionale, di cui quella precedente a Bagnoli, chiamata dai ragazzi della Locomotive Flegrea nel settembre precedente. Il limite che ne avevamo riscontrato era semplicemente numerico, nel senso che non si era ancora riusciti ad attuare un allargamento vero e proprio su scala nazionale su un tema quale quello del calcio popolare, che era in costante allargamento, o almeno la lettura nostra è appunto che negli ultimi anni il mondo del calcio popolare si stia sviluppando e diramando praticamente ovunque sul territorio nazionale. Per cui l'idea che ci è venuta è appunto quella di fare questa chiamata, provando a contattare più realtà possibili a Roma, ma semplicemente per un discorso logistico, ed è stata effettivamente fatta a gennaio scorso. L'assemblea di per sé è andata bene. Il primo dato positivo di quella giornata è sicuramente numerico, perché una trentina di realtà si sono presentate e si sono confrontate sul tema del calcio popolare. Il secondo dato che mi interessava insomma riportare è il fatto che, a differenza di tante altre assemblee, abbiamo cercato di provare a impostare questo in una maniera un pochino più pratica, quindi tre tavoli di lavoro in cui confrontarsi effettivamente su delle cose pratiche. Mi riferisco per esempio al tesseramento dei migranti, alla creazione di una SD, al ruolo dei tifosi nel progetto e così via. Era un po' la stessa situazione in cui ci eravamo trovati noi come Spartak Lidense ad Ostia, intendo, poiché in qualche modo nel momento di quell'assemblea noi eravamo nati da un anno e mezzo, quindi giovanissimi, con ancora una serie di problematiche da affrontare, e ci sarebbe risultato utile sia a noi che a quelle squadre ancora in fase di costruzione riuscire ad avere un confronto reale. Un'assemblea così allargata in un mondo quale quello del calcio popolare, che è ancora tutta in fase di costruzione, con realtà estremamente eterogenee all'interno. Con questo intendo che ci sono realtà che giocano in federazione, in FIGC, realtà che fanno calcio amatoriale, squadre che giocano calcio a 5, squadre femminili, squadre che si occupano di calcio integrato, quindi con migranti e rifugiati e così via. Potete ben rendervi conto che esistono parecchie differenze. Non volevamo nemmeno dare dei paletti o una chiusura statutaria in quella fase per definire poi le linee guida del calcio popolare, nel senso è ancora una fase precedente secondo noi, in cui c'è necessità di un confronto, c'è necessità di crescita, c'è necessità di farsi tutelare anche la possibilità di creare altre squadre, altre realtà per tutti quanti, e attraverso questo confronto poi riuscire a costruire qualcosa tutti insieme, ma ecco, in divenire, senza chiuderci subito a riccio. L'assemblea del calcio popolare dunque è stata un primo tentativo per mettere in rete e favorire il confronto e lo scambio di informazioni tra le tante squadre che stanno nascendo nel nostro paese. In quell'occasione si è pensato anche a dar vita ad alcune campagne che, a cavallo tra sport e politica, rappresentassero il marchio distintivo del calcio popolare. Ci sono state anche varie proposte di campagne da lanciare. La prima fra tutte che mi viene in mente è quella contro la Noif 40, che riguarda soprattutto le squadre che hanno provato o lavorano effettivamente con migranti e rifugiati, e quindi con tutta la problematica del tesseramento per questi ragazzi, che la maggior parte delle volte non hanno dei documenti validi, e quindi la federazione pone dei paletti importanti ed effettivamente non gli impedisce di poter giocare. Ce ne sono state diverse, altre per esempio erano proposte su una campagna comune da estendere sull'utilizzo degli spazi da gioco abbandonati nelle varie realtà cittadine e poterle dare appunto a queste realtà che si muovono sul terreno del calcio popolare. E appunto la terza, che forse era quella un pochino più pratica, era quella del campeggio e di queste 3 giorni da fare giù in campagna. Anche Bologna ovviamente ha le proprie squadre di calcio popolare, tra quelle più strutturate che fanno un prezioso lavoro in particolare sui temi dell'antisessismo e dell'antirazzismo troviamo il Grinta. Marcello Marano ci racconta com'è nata questa esperienza. Il Grinta nasce un po' per scherzo quando decidiamo di partecipare ai mondiali antirazzisti, era il 2009, ci guardiamo in faccia, ci rendiamo conto che a parte uno nessuno di noi ha mai giocato a calcio, però decidiamo comunque di formare una squadra per andare a giocare ai mondiali, che avevamo sempre visto invece da un altro punto di vista, semplicemente da quello delle serate, del bar e dello stinco. Decidiamo di partecipare, ovviamente non vinciamo neanche anche una partita, ma l'anno dopo ci riproviamo, l'anno dopo ancora, e a un certo punto uno di noi viene in mente e dice: ma perché non ci strutturiamo di più, non iniziamo a fare un po' di cose in quest'ambito, creiamo una realtà di sport popolare e costruiamo un po' di progetti. E così al bancone di un bar è nata l'idea di costituirsi in vera e propria associazione, quindi di darsi una struttura un po' più forte. Fin qui sembrerebbe la classica storia di ragazzi che si ritrovano a giocare, che magari vogliono mettere insieme una squadra, ma nel concreto come si può invece praticare un'idea diversa di sport? Per capire cosa volevamo fare, siamo partiti da quelle che erano le nostre esperienze. Le nostre esperienze, molte si rifacevano a quelle che avevamo vissuto da ragazzini, quindi di situazioni nelle scuole calcio, nelle squadre di pallavolo, molto orientate alla competizione, orientate a trovare il fenomeno nel gruppo, e tutti gli altri restavano tagliati fuori. Quindi noi cerchiamo di ribaltare questa cosa, abbiamo delle squadre che sono miste in tutti i sensi, nel senso che ci sono, giocano insieme ragazze e ragazzi, ragazzini e senior, e anche soprattutto diversi livelli di capacità nel gioco. Questo a volte è difficile. Quindi ci siamo fatti anche, abbiamo pensato molto a come gestire queste diversità. Adesso abbiamo finito qualche mese fa il torneo di Mondi, che è un torneo che va proprio in questo senso, quindi di far incontrare in campo situazioni e possibilità e capacità molto diverse tra loro. Al torneo di Mondi hanno giocato squadre estremamente strutturate insieme a squadre assai poco strutturate come i ragazzi del centro d'aggregazione della Torretta. Hanno giocato insieme gli utenti del servizio psichiatrico adulti di Casalecchio, insieme ai rifugiati dello Zaccarelli. Tutta questa diversità è riuscita a stare insieme in campo e a creare, secondo noi, un bel percorso collettivo. Ci siamo riusciti modificando gli obiettivi. C'è sempre l'obiettivo di far gol, perché altrimenti non giocheremo a calcio. Però si cerca di arrivarci mettendosi in gioco, e la cosa che fa scattare il meccanismo è l'attenzione all'altro. Ognuno si deve impegnare nel gioco, ma si deve anche impegnare nel guardare i suoi compagni come stanno vivendo quel momento, che è un momento di svago e di divertimento, ma comunque è una gara, e quindi mettere anche l'altro nelle condizioni di far bene a seconda delle sue possibilità. Abbiamo creato dei documenti su queste cose, perché sembrano cose scontate, ma poi quello che ci piace, il motivo per cui abbiamo deciso di impegnarci nella pratica sportiva, io mai mi sarei aspettato all'alba dei 30 anni di iniziare a giocare in una squadra dopo i ripetuti fallimenti nell'infanzia e dell'adolescenza. Quello che ci ha convinto invece a costruire questo nostro progetto è stata proprio la capacità del gioco di farti vivere in maniera forte, e a quel punto devi anche cercare una coerenza in quello che fai, delle situazioni che altrimenti nella vita di tutti i giorni difficilmente riesci a mettere a fuoco. Invece nello giocare insieme vengono tutte a galla. Come già avevamo intuito dall'intervista a Mario sulla polisportiva TPO, il centro sociale ha anche una squadra di calcio, gli Ixunt Leones. È lo stesso Mario a raccontarcene la genesi. Abbiamo partecipato come squadra del TPO ai mondiali antirazzisti nel 2011, li abbiamo vinti fortunatamente, e di lì poi ci siamo fatti delle domande su come poteva essere possibile praticare il calcio in particolare, no? E farlo appunto anche lì con etica, uno sport, che il calcio, accessibile a tutti. tutti senza nessun tipo di discriminazione. E quindi abbiamo deciso di fondare l'Ixunt Leones Football Antirazzista, dapprima con una squadra di calcio a 7, dopo il primo anno abbiamo deciso di fare il calcio a 11 per due motivi. Il primo perché avevamo creato un gruppo ormai numeroso, perché il calcio a 7 ci stava stretto, poi perché nel calcio a 11, essendo più seguito, essendo un po' più il calcio, abbiamo deciso di iscriverci al calcio, al campionato di calcio a 11 in Wilton. Anche gli Ixunt Leones hanno promosso o partecipato a campagne che testimoniano come lo sport popolare non sia solo un'attività fisica, ma anche di impegno sociale e politico. Una di queste campagne chiedeva la cancellazione di una norma discriminatoria nei regolamenti della federazione che limitava l'accesso allo sport dei migranti. Erano i comma 11-11 bis dell'articolo 40 delle NOIF, che sono le norme della federazione dilettantistica, e praticamente in sintesi vietavano, comunque rendevano difficile l'accessibilità da parte dei migranti al calcio. Insieme all'associazione Sport alla Rovescia, di cui facciamo parte, insieme a tante altre polisportive che vanno dal Veneto alla Campania, passando naturalmente per l'Emilia Romagna, abbiamo deciso di intraprendere questa campagna, questa battaglia. L'importante era appunto mettere in risalto queste norme vecchie, perché parlavamo di norme di 30, 40, 50 anni fa, e siccome il calcio, come la vita, lo sport in generale, il mondo cambia, non era giusto secondo noi che ai migranti venisse limitato l'accesso alla pratica sportiva. Per fortuna questi comma sono stati cancellati 3 anni fa, ora non so se mi piacerebbe dirti no, che la battaglia è stata vinta da noi, però questo non è importante, cioè nel senso l'importante è che abbiamo messo in risalto questo problema e che poi sono state cancellate quelle norme. Siamo stati tra i primi ad aderire alla campagna, no? Quindi uomini contro la violenza sulle donne, abbiamo portato più volte striscioni, siamo entrati in campo con delle magliette per sensibilizzare un attimino alla campagna e quindi al tema molto importante per noi. Oltre a quella campagna anche ci ha visto protagonisti anche la campagna No Disex, che era durante prima delle Olimpiadi in Russia. Abbiamo pensato di sollevare anche qui un tipo di problema, quindi di ragionamento contro le discriminazioni per orientamento sessuale, prima di soci. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché una volta non ci porti pure me? Chissà se davvero vai a vedere la partita, o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà se mi dici una bugia o una verità, ma un giorno ti seguirò, perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprir io potrò che mi vuoi imbrogliar da mamma ritornerò. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché una volta non ci porti pure me? Chissà se davvero vai a vedere la partita, o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno ti seguirò, perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprir io potrò che mi vuoi imbrogliar da mamma ritornerò. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché una volta non ci porti pure me? Un Un ultimo sguardo che vi vogliamo offrire in questo speciale riguarda un altro sport di squadra, il basket. Nella nostra città, in particolare, esiste una società, i Bradipi, che integra ragazzi disabili e normodotati, maschi e femmine, nella disciplina del basket in carrozzina. I Bradipi hanno vinto il campionato italiano per ben 2 anni. Laura Zacchiroli ha intervistato il loro presidente, Biagio Saldutto. Come società sportiva nasciamo dal CSH, Comitato Sport Handicap del Comune di Bologna, nel 2003-2004. Dopodiché ci siamo uniti al circolo di Cidozza, al circolo dei autoferrotramvieri di Bologna, nel 2010, e solo nel 2011 ci siamo costituiti come polisportiva i Bradipi. Noi nasciamo come gruppo di mini basket in carrozzina, i ragazzi al di sotto dei 23 anni che hanno iniziato l'attività militando nel campionato nazionale di mini basket. Dopodiché nel 2008 siamo riusciti a formare anche la squadra dei senior e gli adulti che attualmente milita in Serie B. Le squadre di basket in carrozzina di solito sono uguali, identiche al basket non votati, solo che la differenza sostanziale è quella che in campo i 5 atleti che scendono non devono raggiungere un determinato punteggio, in quanto ogni atleta in base al proprio handicap ha un punteggio. Siamo riusciti in pochi anni a raggiungere ottimi risultati con soprattutto la squadra giovanile, che è il secondo anno che conquista lo scudetto nazionale, mentre la Serie B comunque è in continua crescita, scendendo quest'anno come ai quarti playoff per il titolo in A1, diciamo. Oltre a essere miste, quindi maschi e femmine, c'è anche la possibilità di integrare nel gruppo i ragazzi non votati. Tanto è vero che noi come squadra Under 23 abbiamo 2 ragazzini normodotati che partecipano normalmente ai campionati nazionali con i ragazzi in carrozzina, quindi diciamo che è un'integrazione a 360 gradi, quindi questo è un ottimo messaggio anche per far capire che comunque è uno sport adatto, diciamo, non solo alle persone disabili, anche per normodotati, contrariamente allo sport per normodotati che è adatto solo per normodotati, ecco. Con la città diciamo che il rapporto è stato sempre in continua crescita, un'attività inizialmente un po' all'oscuro tra le altre attività, diciamo, i normodotati, quindi abbiamo dovuto lottare, farci conoscere con varie iniziative. Infatti noi siamo comunque sempre presenti all'interno di manifestazioni, ci cerchiamo sempre di intrufolarci in quelle che sono le attività dei normodotati in modo da far conoscere la nostra attività. Quindi pian piano la gente ha iniziato a conoscersi, a partecipare agli eventi, comunque c'è un certo pubblico durante le partite. Ultima domanda invece riguardo al vostro motto, Noi Può, da che cosa è nato, com'è nata l'idea? Noi Può è la famosissima frase di Sasha Danilovic che noi abbiamo gentilmente usato. Noi Può è l'emblema, un po' tutto quello che è il significato della nostra attività, di quello che facciamo nel quotidiano, perché non ci poniamo lì limiti alle nostre possibilità, e quindi Noi Può sta proprio a rappresentare il fatto che noi possiamo realizzare qualsiasi sogno, come avviene per le persone normodotate, ecco. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Ale. L'inchiesta finisce qui. Tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito radiocittafugico.it.